Elia Media, un'altra multimedia channel. Radio Elia Media, tutti i giorni dal 15 ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Pontoni. Hotel Nosfer è una sorta di reggio evanescente, che c'è e un attimo dopo non c'è più. È come un alveare che sciama da un altrove all'altro. È un luogo sospeso, dove ogni stanza è in risonanza con le altre e ogni viaggiatore lascia impresso nei muri un frammento della propria storia, una molecola di sé. Così, per chi sa vedere sentendo, ogni hotel e le stanze del Nosfer, più degli altri, sono i fotogrammi di un film senza principio e senza fine, dove ciò che è stato continua ad essere autonomamente. Le abitanti del Nosfer sono sospese tra più forme e dimensioni. Ognuna è una polide della vita, è l'ape regina di un alveare sempre affollato ed è complice di quell'entrare, di quell'uscire di esistenze attraverso la porta girevole dell'ingresso, metafora della ruota della vita. Ogni abitante dell'hotel Nosfer è tutte le altre, e tutte sono lei. Il loro pensiero, insieme, è forza sensibile, perché tutte pensano in ognuna, e ognuna in tutte. Le loro menti comunicano tra loro. L'hotel Nosfer, come l'alveare, più che una società è una famiglia, e più che una famiglia è un superorganismo, dove ogni donna non è che una singola cellula di un insieme, e dove il pensiero di ognuna, pur conservando una sua individualità, è in tutte. Queste donne sono a un tempo impresarie, zitelle, maîtresse, sensitive, casalinghe, pitonesse e mistiche. Se ogni cosa ha dentro una vertigine che la illumina, così il mazzo delle chiavi che queste donne portano alla cintura è un talismano. Oppure un rosario, dove quasi per un fenomeno di psicometria, le chiavi come i grani, se toccate, svelano i destini di chi ha occupato le stanze dell'hotel. Perché ogni chiave è una camera e ogni camera una storia, ma in ciascun mazzo c'è sempre una chiave in più. Quella che apre la soglia della camera che non c'è. Buonasera a tutti, siamo qui ancora con Elia Media in Piazza Pontoni, ma in realtà siamo al Hotel Nosfer. Federica, mi vuole dire qualcosa? No? Quindi siamo all'Hotel Nosfer con il gruppo 1920, vi ricordo che 1920 sono Costanza Savini, Linda Rigotti, Federica Falancia, Fedra Boscaro e Tihana Maravich. In questo momento siamo in cucina, sono attorno le 2 del pomeriggio, io ho appena avuto un pranzo con Letizia Bianchi, che è la nostra prima ospite della giornata di oggi, è la nostra terza puntata, domani è l'ultima, la quarta, nello stesso orario dalle 18 alle 20. Vi ricordo anche che Elia Media può essere ascoltata sul sito di Elia Media, cioè www.aeliamedia.org, sul streaming, oppure su Radio Fujiko, Radio Kairos, sulle frequenze 105.5. 85. Adesso io continuo la mia chiacchierata con Letizia Bianchi, che apriamo al pubblico, e volevo anche dire alle donne presenti, se e quando vogliono intervenire possono farlo. Letizia Bianchi si è occupata nella sua vita dell'insegnamento e della politica, è un insegnante docente della sociologia della famiglia, oggi in pensione, E per quanto riguarda la politica ci sono nomi di due importanti formazioni, una è l'associazione Lavinia Fontana che Letizia ha fondato insieme ad altre donne alla fine degli anni 70 e l'altra è Autoriforma Gentile, Letizia ci dirà qualcosa di più riguardo a queste due formazioni. Ma prima di questo vorrei, prima parlando con Letizia ho detto come ti piacerebbe che ti presentassi, qui si parla sempre c'è il problema del ruolo, no? Questa, il problema della carta d'identità, Letizia mi ha detto ogni persona o spesso le persone sono tante cose, però se io dovrei dire che una cosa sola direi che sono una donna. Letizia ti passo il microfono, si accende, aspetta che te lo accendo, sì. Prego. Sì, è un'autoevidenza, anche se ormai non sempre. No, direi che sono una donna perché io ho fatto di questo uno dei punti della mia esperienza e della mia riflessione e del mio sapere. Quindi è per questo che lo dico, non tanto perché sono, ho l'avventura, la fortuna di essere nata donna, ma perché questa cosa è stata la cosa su cui ho più riflettuto, pensato insieme ad altre. Comunque prima ti dicevo anche che questa idea di definirsi tutto in uno a me non corrisponde. Ci sono delle persone per cui questo funziona e anzi è importante, ma per me non è così. Io direi che tra l'altro una delle grandi tragedie della vita e della storia è quanto un evento, un governo obbliga qualcuno a dirsi qualche cosa piuttosto che un altro. Io ho un'amica carissima che si chiamava Franziska Ioanovic e a un certo punto ha dovuto chiamarsi Francesca Giannone e decidere che doveva scegliere fra essere italiana o abbandonare la sua amatissima Pola. Ecco, io credo che noi siamo più cose e va bene, se poi devo decidere, sì, una donna, un insegnante. Senti Letizia, tu hai avuto, siccome il pensiero femminile, come tu dici, è stato centrale nella tua esperienza, nella tua vita, hai avuto queste due esperienze molto vive, vivaci con queste associazioni dove la parte femminile è stata piuttosto consistente in una dominante. Quindi potrai sicuramente risponderci a una delle nostre domande chiavi, che cosa è che cambia quando a fare una cosa sono solo le donne? È una domanda chiave, ma molto difficile. Io so che quello che è cambiato per me e per molte come me è che noi abbiamo cominciato a fare. Quando una donna incomincia a fare, si toglie tanto da un regime di impotenza e di lamento, fa con le altre, ha un progetto, non sta più a vedere cosa le è permesso, che cosa non le è permesso. Voi avete un'altra generazione, ma nella mia generazione c'erano ancora molte cose che si potevano non fare con la scusa che non c'erano permesse. E allora la prima cosa è appunto importante è che ti pigli in mano la vita, te la pigli in mano insieme alle altre. Quindi quello che avviene è un'azione rispetto a un pensiero che rimane un'azione in un'azione e un pensiero che si autoalimentano non da solo, però la mia storia è stata nella relazione con le altre, cioè il coraggio, la voglia di fare, il divertimento, perché bisogna ricordarsi quanto ci siamo divertite noi negli anni 50, noi ci siamo divertite da pazze. Infatti anche oggi tu hai scelto per il nostro ritrovo la cucina, che è anche questo un luogo... Ma un luogo di nutrimento forse più che di divertimento. Per me è sempre stato un luogo estremamente importante, ma per alcune donne è stata una condanna. E quando parlo di soggettività io dico proprio l'accettazione che né che come donna devi cucinare, né che per essere una donna libera non devi fare da mangiare. Ecco, è questa la libertà. No? Quando tu prima mi hai parlato della politica, mi hai detto anche che la politica per te è intrinsecamente legata con la vita personale e con il qui e ora, quindi con la quotidianità. Sì, io sono sempre più convinta che la politica ha a che fare col contingente, col qui e ora. Tanto perché si muore e quindi è importante fare ogni momento, ogni giorno, quello che è possibile o per te necessario fare, ma anche per non fare dei monumenti che poi passi tutta la tua vita a tenerli in piedi, magari contro i progetti, non so, dei giovani, delle giovani o degli altri che vanno da un'altra parte. E quindi però è faticoso perché hai l'idea che non dico accumuli, a me la parola accumulo non piace, e che non hai, puoi avere certe volte anche l'idea disperante che non hai fatto niente, perché il contingente è dell'ordine, e il quotidiano è dell'ordine del, da rifare continuamente. Ed è per questo che vi ringrazio moltissimo dell'invito, perché per me questo invece è qualche cosa dell'ordine, di qualche cosa che anche se non capitalizzi passa, sì. Ecco, evidentemente. Allora questi sono i momenti in cui io sono veramente contenta e molto emozionata. Tu adesso hai parlato delle cose che continuano ad essere, quindi di una processualità, di qualcosa che va avanti, però hai menzionato anche la parola morte, quindi delle altre cose che muoiono, poi si creano dei monumenti. Una delle prime volte che noi ci siamo incontrati si parlava dei film che trattano del tema dell'apocalisse, del fine del mondo, e quest'anno ne abbiamo ben tre, uno di Clint Eastwood, uno di Malick e uno appena uscito di Lars von Trier. Tu hai notato che tutti e tre questi film sono stati realizzati dagli uomini, grandi uomini, però anche uomini vecchi, e quindi quest'idea io l'ho collegata quindi a un'idea maschile, questa della fine del mondo. Non lo so, comunque vecchi e vecchie, cioè bisogna stare molto attenti a non pensare che siccome la tua vita finisce, finisce la vita. A me sembra che in questo, però è una mia opinione, gli uomini sono messi peggio di noi vecchie, perché per loro sta finendo davvero qualche cosa, sta finendo un tipo di società e di civiltà che si chiamava patriarcato, sta finendo il regime del padre, e quindi in effetti per loro è un momento, per gli uomini sensibili, adesso Lars von Trier non l'ho visto, ne lo metterei neppure nel novero degli uomini sensibili, ma grandi uomini come Clint Eastwood e tutto sommato anche Malick, se tanto posso dire quel che voglio, che ha le idee un po' confuse secondo me, ma comunque, ecco, sono di fronte e sanno stare di fronte comunque a una fine. Personalmente a me sarebbe più interessante, per esempio il Clint Eastwood, mi è piaciuto, anche se quel film lì era bellissimo, molto di più Gran Torino, perché lui lì è di fronte alla fine del padre, però non è che dice che siccome c'è questa fine, finisce il mondo. Quindi c'è una parzialità che mi sembra più interessante. Sì. Ecco. Però non so, semplicemente a me, non so se voi avete visto questo film dell'iraniana sulla separazione. Ecco. Non ancora, io. Mi sembra molto interessante che una donna, adesso non dico le donne, ma una donna fa un film sul separarsi. Ecco, però per gli uomini credo che sia proprio un compito storico, è un compito storico, abbandonare qualcosa, mollare qualcosa. Mi piacerebbe che fosse qui Barbara Morello, che l'altro giorno ci ha parlato del matriarcato, di questo mondo di oi che lei ha un po' inventato, un po' ritrovato dal passato, cioè quello che era prima dell'avvento del cavallo e questa tua idea, immagine della morte di una società patriarcale oppure della fine del padre. Comunque ci sono tanti temi che ritornano in questi giorni, uno di questi è anche il tema della cura, della medicina. Abbiamo avuto qui tra di noi nella seconda puntata un medico e si è parlato di come la cura prima apparteneva a una sfera della famiglia. Prima, chiacchierando con te, tu mi hai detto una cosa bellissima, mi hai detto quando, adesso non so, forse sbaglierò, quando una persona ha cura di sé automaticamente ha la cura del mondo o qualcosa del genere? Si potrebbe anche dire così. Io, parafrasando un detto che dice chi salva una vita salva il mondo, dico che è un detto ebraico, dico che chi cura la vita cura il mondo. Certo, anche curare te stessi, per esempio, questa è una grande questione maschile. Gli uomini fanno molto fatica a prendersi cura di se stessi. E una delle cose più belle che si può vedere adesso sono gli uomini che sono disponibili a farsi, ad ammettere la propria dipendenza, a prendersi cura del loro quotidiano e a prendersi cura dei bambini piccoli. Io la vedo come un'enorme conquista. Quindi c'è un femminile liberato anche nel maschile? C'è un femminile, sì, tu lo dici così. Io è un tipo di linguaggio che non mi appartiene, però potremmo dire così. Io lo dico in maniera molto più, non lo so, forse anche così, è che forse siamo riusciti a fare vedere che la bellezza che c'è nella cura anche a molti uomini. Perché la cura è noi, siccome molte donne, siccome la cura è bellissima, ma è anche una grande fatica. Sì. Spesso abbiamo detto solo la fatica. Sì. Invece bisogna far vedere la fatica e la bellezza. Perché se fai vedere solo la fatica è chiaro che non vengono. Perché dovrebbero? Però ci sono tantissimi giovani uomini e non solo che hanno capito questo, e curare la vita significa entrare in un paradigma in cui tu sai che produrre, fare, però poi è necessario pensare alla manutenzione, sai che esiste una dipendenza tua dall'aria, dall'acqua, da tutti i beni comuni, sai che la dipendenza è proprio un dato dell'esistenza e ti vuoi mettere in quel paradigma. Sì, quando parliamo della cura mi viene in mente anche la casa. Io ti ho raccontato che il 1920 ha un'immagine, che è questa, l'immagine delle donne riunite attorno a un tavolo a parlare tra di loro, di se stesse, del mondo, di come questa immagine della casa sia importante per noi e di come io per esempio ho parlato con diverse donne qui invitate della casa come rapporto tra il dentro e il fuori, come un relazionarsi con la città, e tu hai reagito, hai avuto una reazione molto vivace su questa immagine della casa. Sì, io credo che sia molto bella, però appunto la casa deve essere un luogo aperto, deve essere, se no diventa una prigione. Se no diventa un privato in cui o cerchi la sicurezza, la rassicurazione, la consolazione, ma lasci fuori il mondo. Tu hai sperimentato personalmente questa apertura della casa e per un lungo periodo hai aperto la tua casa? Beh, io ho vissuto in case in cui c'eravamo in 23, e non era sempre facilissimo, ma anche poi da più grande. Una delle cose belle del movimento delle donne e del movimento politico era la socialità. Noi non, sì, si facevano le riunioni, c'erano le discussioni, ma tu passavi tantissimo tempo insieme, io già lavoravo allora, ma mangiavi insieme, passavi la sera insieme, quindi una socialità molto grande, e case che erano talvolta anche dei porti di mare, che può essere un po' complesso e complicato, ma delle case che erano tappe della vita di ognuno da mettere a disposizione anche degli altri. Quindi sì, la cosa di cui tu poi parli, io per perlomeno una decina d'anni, il venerdì, che era il giorno che non lavoravo, facevo pranzo e veniva chi voleva. E questo è stato, io ho conosciuto la gente più pazza in quel modo lì, ma anche la più bella, la più interessante, e ho anche imparato molto a mollare la casa, perché io come idea preparavo tutto, invece poi la gente arrivava, faceva, pigliava, insomma. Credo che ci sia molto importante farne un luogo di accoglienza, quindi non per me, quindi in cui ci posso stare bene anch'io, ma anche un luogo aperto. Altra cosa dico, enorme riconoscenza per chi ancora suona sotto, non la sera, io abito in via del Pratello, non la sera per darmi noia, ma suona sotto e vede se c'è qualcuno in casa e mi viene a trovare senza telefonare, pigliare appuntamento 15 giorni prima. Sì, oggi è diventata una cosa piuttosto rara, anche quella di presentarsi ai vicini quando uno cambia casa e decide di andare a salutare i vicini e dire sono venuto. Abbiamo finito? Ah no, abbiamo ancora 5 minuti, grazie Linda. Va bene, questa idea dei vicini era solo legata a questa socialità che forse si è rinchiusa e forse ha bisogno di essere di nuovo riaperta oggi. Ma anche bisognerebbe vedere tutte invece i luoghi di socialità che ci sono. Ce ne sono davvero tantissimi, bisogna metterli in relazione e anche dirli, perché ce ne sono davvero tantissimi. Qui con noi c'è una donna che apre la sua casa in cambio della stagione, Silvana, che fa questi pranzi bellissimi per salutare stagione. Non so se Silvana cambio vuole dirci qualcosa, forse su. Delle feste di stagione sono sì. Nate tra amici il venerdì sera della serie Che bella casa che hai, e sarebbe bello fare delle cene, sarebbe bello incontrarsi, e così è andata. Ma chi entra sa cosa prendere, dove andare per riscaldare i cibi, ed è bella perché ognuno porta qualcosa di sé, che ha voglia di portare, oppure niente, ma se stesso. Se stesso, e funziona, ma funziona perché c'è Letizia, c'è Chiara, c'è Ticana, e ci sono amici di amici di amici, e la cosa si allarga e sembra avere vita sua, ma non è partita da me. Io ho detto dei sì. Sì. Ho detto dei sì. Torno un attimo dalla casa alla politica. Noi, quando abbiamo organizzato questo Hotel Nosfere, questo gruppo che vuole interrogarsi sul femminile, abbiamo cominciato ad invitare donne, chiedere se vogliono venire a raccontarci. Spesso le artiste, non spesso, però è successo che hanno reagito con un po' di, aiutatemi, un po' di spavento. Si sono un po' spaventate, dicevi, pensando al fattore, all'accezione politica. Esatto, quindi cosa vuol dire una ghettoizzazione? Vuol dire creare un'altra isola? Quindi il movimento delle donne, che, nel quale tu sei stata molto attiva negli anni 70, ha avuto un senso preciso in quel momento politico e ha un senso preciso oggi che è diverso. Ma io credo che se il movimento delle donne è servito a qualcosa è che ognuna sta dove vuole stare, assumendosene un po' la responsabilità, ma sta dove vuole stare. Allora ci sono delle donne che preferiscono dirsi un artista che un artista. A me fa strano, però bisogna partire da lì e chiederle magari quali sono i vantaggi. Io ci rimango un po' male, ma però evidentemente per lei dirsi una donna significa perdere del mondo. La mia esperienza è esattamente l'opposto, è stare nel mondo con padronanza e con signoria. Ecco. Sì. Quindi. Vorrei chiudere, se dobbiamo chiudere, con un'altra delle nostre domande 1920, firmate 1920, che è quella, Letizia si sta mettendo la mano nei capelli, e la domanda... Fate delle domande difficili. La domanda è... qualche cosa oggi nella nostra società, quale elemento femminile, quale che cosa del femminile fiorisce, che cosa è in fiore e che cosa soffre di più? Ma io devo dire che diventare vecchia è una grazia. Per me ha a che fare con la libertà, non credo di esserlo mai stata tanto come adesso. Però io credo che ci sia una grande libertà femminile e nello stesso tempo un paradosso e una cautela. Perché bisogna anche sapere come il mondo l'accoglie questa libertà, perché se no si patisce e talvolta se non è accolta sei anche disponibile ad abbandonarla. Le donne vogliono accoglienza, la cura è questo. Per esempio io credo che ci sia dal punto di vista culturale l'idea che la libertà viene letta come come dire, disponibilità. È un errore pazzesco. La libertà è libertà, non è disponibilità. Non è che se vai in giro la sera a luna per i fatti tuoi tu sei disponibile. E però bisogna anche sapere come l'altro o l'altra ti vede. Ci vuole una responsabilità anche nei confronti della libertà. E credo che sia una di queste cose qui, no? E anche la disponibilità credo che sia una cosa bellissima fatta da uomini o da donne, però non può essere dissipazione, non può essere onnipotenza, che è una cosa del materno anche, non può essere non tenere i confini, deve essere una relazione. Quindi non so che cosa fiorisce o non fiorisce, io di libertà femminile ne vedo tantissima in giro, però penso che c'è una responsabilità e anche un modo di metterla in giro, non dicendo per me è così, no, come viene accolta, come ci stai dentro, come la potenzi, che cosa dice all'altro e alle altre, ecco, come non li mortifica, insomma come viene accolta, questo mi sembra il compito. Senti Letizia, prima stiamo chiudendo, vorrei solo dare la possibilità ai nostri spettatori o ascoltatori e le ascoltatrici, se volessero informarsi sull'associazione Lavinia Fontane Autoriforma Gentile, dove possono trovare delle informazioni. C'è un sito? No, non ci sono siti. C'è un luogo? O meglio, ci sono, ma non sono tenuti, sai che quando non sono tenuti sempre aggiornati è come se non ci fossero, questo è un problema. L'associazione Lavinia Fontane, siamo state anche in 40, che era un numero pazzesco, adesso siamo in 7, però ci vediamo da... Dovreste mettervi in contatto con me o con un'altra delle mie amiche, purtroppo. Va bene, allora mettetevi in contatto con 1920 e noi passeremo il contatto. Possiamo fare questo certamente, passaggio di certamente. Casa in casa. Grazie Letizia per queste... Sì. Vi ringrazio, non appena ristabilisco il venerdì ve lo farò sapere. Grazie, wow, grazie tantissimo per queste belle parole di... emozionanti e anche di saggezza, devo dire. Grazie. Grazie. Coisas que acontecem a curto tempo não se sujeitam ao consenso. Ficam no fundo enquanto o resíduo perece. Saporias feitas na manga. Thank you. eccomi qua, sono 19:20 Federica Falancia e vi parlo dall'esterno dell'hotel Nosferre, dove ho incontrato Sara Lenzi in una giornata in cui c'era molto vento. Sara Lenzi è una donna che vive a Bologna, una sound designer, un punto di riferimento per il sound design italiano. E ha creato Lorelei Project, la sua azienda, la sua impresa, che cura tutti gli aspetti del suono. Volevo farvi ascoltare qualcosa, molto impegnata, vi faccio ascoltare una registrazione. Tu sei stata invitata ad un convegno ad Amburgo per parlare di quale progetto? Del suono per le auto elettriche. È stato il tema caldo nel settore suono di tutto l'anno scorso. Tutto un po' il rumor attorno a questo problema del suono è nato sull'onda di una normativa sulla regolamentazione appunto del suono nei veicoli elettrici e ibridi, che poi è un paradosso perché il suono non c'è, per l'appunto il problema è quello, non c'è né all'interno né all'esterno. E questo è soprattutto per quel che riguarda il suono esterno, quello di cui si è occupata Lorelei, questo è un problema sollevato dai non vedenti inizialmente, poi esteso a bambini, anziani, animali, ciclisti, chiunque cammini con le cuffiette, insomma non sente arrivare l'auto elettrica. Basta vedere le Prius taxi che ci sono anche a Bologna, ce n'è molte, se una è ferma al semaforo e tu attraversi sembra spenta, però riparte ed è anche un veicolo abbastanza grosso, quindi insomma ti coglie un po' di sorpresa, quindi molto probabilmente si dovranno inserire dei suoni artificiali e questa è una grossa potenzialità, sia è un rischio allo stesso tempo, quindi il congresso era stato dedicato a questo tema l'anno scorso, sia un appuntamento che si tiene ogni anno, era dedicato proprio al suono per le auto elettriche e noi siamo stati invitati come caso scuola, insomma, per aver condotto per un anno intero l'anno scorso insieme a Fiam, che è un produttore italiano però multinazionale, direi leader del mercato in tutto il mondo di clacson, sono quelli del famoso clacson del sorpasso, cosa che citano, quindi attenti al suono da un bel po', e hanno visto le potenzialità, quindi abbiamo fatto uno studio per arrivare a un prototipo sia meccanico, quindi che insomma meccanico hardware che loro producono. E il nostro ruolo è stato quello invece di immaginare che suoni potrebbero essere i suoni dell'auto del futuro e in che modo poi vengono emessi dall'auto, quindi altre cose più tecniche. E rimanendo allora un attimo sul congresso di Amburgo, visto che la seconda sessione praticamente era dedicata alla comunicazione del marchio, quindi una sessione proprio di sound branding affrontata da questa donna, Margherita Bockmann. Mm-hmm. E questo è un terreno minato e sensibile. Da un punto di vista anche etico, voglio farti questa domanda e voglio fare l'avvocato del diavolo, cioè qual è la tua posizione rispetto a un mercato che comunque vuole inventarsi sempre bisogni da soddisfare, quindi molto spesso il compito di imprenditrici come te è anche quello di inventare nuove cose per procacciarsi eventualmente nuovi clienti. Sì, in questo caso il suono come elemento del marketing potrebbe essere più che un nuovo bisogno, un elemento per vendere di più. Quando ho iniziato comunque, come ti dicevo prima, era proprio l'idea un po' di il rammarico, ecco, che tantissima ricerca che si era fatta nel campo puramente artistico sul suono non avesse sortito alcun effetto nel mondo, chiamiamolo, reale. E quindi ci si trova ad avere nell'arte contemporanea, voglio proprio allargare il campo al di là della musica e del suono, un patrimonio veramente di indagine, di ricerca, di ricchezza, di 50 anni, anche 60, e invece nel mondo esterno, su come consideriamo il suono, per esempio, ha influito molto di più la musica pop, la musica dance, il che non ha niente di male di per sé. Però poi ci si è ritrovati con tutta una proliferazione di suoni anche disturbanti. Sì, che poi il pop, insomma, quando è fatto bene va benissimo, però spesso invece è fatto, a meno che non sia una produzione musicale, ma per dirne una, quando è esplosa la moda delle suonerie polifoniche, lì abbiamo avuto proprio un figlio degenerato magari di un certo approccio musicale, con il gattino virgola e tutte quelle musiche terrificanti, no? E questo secondo me è utilizzare male il suono per vendere di più, anche perché vendi un prodotto che ha successo semplicemente perché si basa su fattori proprio più biechi della vendita, e di fatto inquini il mondo con tutti questi suoni non progettati, progettati a caso. Altro discorso secondo me era, dal momento che il suono esiste nel nostro vivere quotidiano, e credo appunto che tanti risultati positivi del mondo dell'arte possano essere traslati nella realtà e vadano ricompensati per quello che valgono. In questo senso entrare nel mercato, ma semplicemente dire: guarda, io ti posso aiutare perché capisci anche tu, c'è tutta una corrente qui, se vogliamo allargare un po' il filone dell'emotional design, ma anche tante cose che diceva Bruno Munari, che non mi sembra, che non era una persona che si è proprio dato al mercato, ma che riteneva che appunto c'è un modo di progettare il nostro vivere quotidiano che può migliorare la nostra vita, che poi questo genere di ricchezza, per chi lo pensa, lo crea, per chi l'ha studiato per tanti anni, ecco, mi sembra il minimo. Senti Sara, ma è dura per una donna ritagliarsi uno spazio nel settore? Penso che sia dura comunque in qualsiasi settore per una donna, davvero. Leggevo un dossier sul ruolo delle donne in Cina, scritto da una donna inglese che diceva che in Cina sono più emancipate delle inglesi. E io, da donna italiana, mi dicevo: allora andiamo in Cina. Allora, visto che noi diciamo che le donne inglesi, o comunque anglosassoni, già sa, sì, andiamo in Cina. Infatti è la mia prossima tappa. Ma sì. Devo dire che ci sono i pro e i contro a essere una donna in questo settore, nel senso che di solito sei sottovalutata, specie dal punto di vista tecnico, almeno a me è capitato quasi sempre così. Tendenzialmente mi sono sempre trovata o io da sola o io con mia sorella di fronte anche a fare trattative per contratti, di fronte a 10 signori di mezza età, i quali inizialmente tendono a sottovalutarti. Quando però tu ti dimostri preparata e tiri fuori le unghie, allora passano sulla difensiva. È strano il gioco, è un gioco delle parti comunque, questo c'è, è innegabile che c'è sempre. Tra un uomo e una donna c'è un gioco delle parti, comunque anche sul lavoro. Quando poi a questo si assomma il fatto che magari ti occupi di una disciplina un po' strana, tra virgolette, specie in certi settori, e parlo di Lorelai, del lavoro di Lorelai, che magari ha un aspetto tecnico abbastanza importante, quindi ci si aspetta che tu non sia preparata tecnicamente, quando invece capiscono che lo sei, allora quasi hai tu il coltello dalla parte del manico, quasi ti puoi permettere tu, insomma è divertente, in un certo senso io lo trovo divertente. Rimane come fatto fastidioso, negativo, ingiusto e orribile è che poi comunque si tende a dare valore prettamente economico, quindi a pagare di meno una donna sempre. Ritengo di sapermi difendere abbastanza bene, però c'è sempre questa aspettativa, e allora questo non è più divertente. Non è più gioco delle parti, è proprio un'ingiustizia. È come pagare meno un giovane, è come pagare meno, è come sfruttare il lavoro di un bambino, insomma siamo veramente allo stesso livello ed è veramente ingiusto. Su questo non scherzo più. Tornando a Lorelai e ai progetti realizzati, mi vuoi spiegare che cosa è l'associazione sinestetica e crossmodale? Questa è un filone di ricerca che ho intrapreso qualche mese fa, anzi dopo il congresso di Amburgo in realtà, perché uno dei massimi esperti era lì presente al congresso, il professor Spence del centro di ricerca per l'appunto sull'interazione cross-modale dell'Università di Oxford. Loro si occupano fondamentalmente di capire come i nostri sensi in realtà utilizzino informazioni che provengono da tutti i sensi contemporaneamente. Cioè, come non esiste affatto l'idea per cui solo l'udito, solo l'orecchio sente, solo l'occhio vede o l'occhio soltanto vede. In realtà c'è una continua interazione, appunto, tra un modo di percepire la realtà e l'altro, da cui cross modale. Quindi ci sono degli input, per dirla semplicemente, dall'esterno, che sembrano entrare per una via, quindi sembrano entrare dall'orecchio, ma in realtà accendono una lampadina in quella zona del cervello che sarebbe deputata all'olfatto. Quindi noi in realtà raccogliamo costantemente informazioni che da tutti i sensi contemporaneamente, e queste si intersecano, appunto, un'informazione visiva finisce nella terminazione nervosa dell'orecchio e accende un qualcosa, e da tutto questo noi ci creiamo il nostro rapporto col mondo. Poi possiamo essere educati ad utilizzare tutti i nostri sensi, perché no, mi sta venendo da adesso, insomma, immagino che tutta questa ricerca sia poi il preludio a dire allora potenziamo questo aspetto, no? Quindi noi, cioè io e un altro gruppo di persone, abbiamo lavorato per mesi a questo rapporto, in particolare tra il suono, di cui mi sono occupata io, e Marco Galardi, che è un po' l'ideatore di questo progetto, e il cibo. E avete fatto un esperimento? Sì, abbiamo creato proprio un'esperienza che si chiama Food Frequency e che ha una sorta di format, e che sta poi per essere lanciato, insomma. In estate abbiamo fatto l'evento zero, che è stato molto divertente, quindi con 16 cavie che hanno di fatto mangiato e bevuto, perché poi è una cena, quindi la prossima volta mi chiami e sì, in lista. Sì, voglio provare. Infatti noi vogliamo provarla anche noi, perché è stato molto interessante. L'ascolto si fa in cuffia, tutti i suoni sono tridimensionali, quindi è un ascolto 3D molto immersivo, molto coinvolgente. Poi c'è una parte esterna che di suono sempre che entra in scena quando poi ci devono essere quei momenti di convivialità che fanno parte anche di una cena. L'ho sempre immersi in questa doppia culla di suoni e gusto. E l'esito qual è stato? Ottimo, direi, molto ottimo. Ti chiedo un'altra cosa, ma che rapporto c'è tra Lorelai e l'arte contemporanea? Noi occidentali, anche riguardo all'arte, siamo arrivati alla fine di un percorso, secondo me. È il turno di qualcun altro. Infatti le migliori produzioni artistiche che ho visto recentemente vengono tutte da paesi extraeuropei. E da noi c'è stato un lungo periodo di calma, di sviluppo, ma sì, con alti e bassi. Gli anni 60, infatti, sono stati magari l'ultimo momento, e poi 80, 90, 2000, e a quel punto è successo che siamo rimasti lì. Cioè, si continuano a fare le cose che si facevano negli anni 70, con mezzi nuovi, però il linguaggio non è nuovo. E a questo punto io mi sono persa, ho detto, ma qua che cosa stiamo facendo, cosa abbiamo da dire? Ma appunto non necessariamente dobbiamo prendere una posizione, ma proprio il fatto che non si sappia che posizione prendere vuol dire che siamo in un momento in cui bisogna rinnovare il linguaggio. E allora questo o ti viene imposto dalla realtà, come appunto può avvenire in paesi che si stanno aprendo adesso a quello che è successo qui 50 anni fa, e quindi hanno questa voglia di fare, questa urgenza di comunicare. Oppure nel nostro caso magari si può cominciare a ritornare alle cose, per citare un'altra cosa del mio percorso di filosofia, cioè quello che dice Vanceschi, tra l'altro, nella scuola bolognese. E il lavoro di Lorelai mi ha aiutato a questo proprio, mi ha aiutato in questo, nel capire che più che dire bisogna togliere, bisogna cercare di ritornare all'essenziale, quindi anche nel mio linguaggio artistico praticamente non uso più suoni elaborati, non uso più suoni modificati, semplicemente registro i suoni della realtà e cerco magari di diffonderli creativamente, quindi in legame con uno spazio, con un mezzo di comunicazione diverso, però credo che il nostro momento di stupire, di rivoluzionare, di voler fare a tutti i costi quelli che rompono le regole, abbia portato in realtà a questo vicolo cieco che dicevo prima, in cui non si fa che stupire, rompere le regole, però insomma non si innova più da almeno 20 anni. Non ci sono più regole da trasgredire? Dici? Non qui, secondo me. Sì. O forse le regole hanno cambiato vestito? Sì, questo sicuramente, però il fatto che non siano così evidenti, per esempio, non vorrei essere fraintesa, però c'è moltissima arte in Iran. No, perché e anche lì non è necessario essere un attivista in Iran per fare un'arte comunicativa, perché viene da sé, perché ti trovi in un qui e ora che qualunque cosa tu faccia, prendi una posizione, non puoi esimertene. No? Quindi c'è una regola e tutto quello che tu fai è contro la regola. È bianco e nero, perché stanno vivendo quel momento, l'abbiamo vissuto anche noi. Quindi c'è il momento di rottura forte. Sì. Quando le regole diventano così ambigue e anche pericolose, ma sottili, come sta succedendo adesso a noi, almeno per me una soluzione è stata quella di tornare alle cose molto semplici. Ma mi hanno lasciato perché ho portato due bottiglie di vino, perché ci hanno detto che dobbiamo divertirci. No, sei stata tu, scusate. Va bene, Mario vi saluta da Piazza Fontoni. Ringraziamo per le bottiglie di vino Letizia Bianchi. Va bene, da Piazza Fontoni una ola per Letizia. Ok, parte l'applauso, Piazza Fontoni, 19:20, nel chiosco di Elia Media, Radio Kairos 105.85. .85. Abbiamo sbagliato gli altri giorni, Mario. Mario saluta, passa ai tarocchi. Ciao a tutti, sono Bluma, ormai mi conoscete, sono tarologa. Per chi di voi non conoscesse questo termine, il tarologo è colui che studia e comprende il linguaggio ottico dei tarocchi tramite il loro simbolismo, interpretandone la lettura in chiave simbolica come un alfabeto scritto per immagini, rispondendo al qui e ora, a cui anela l'anima del consultante. Questo è il nostro terzo incontro e oggi vi parlo dalla stanza delle uova dell'Hotel Nosphere. La stanza in cui sono ora è tutta blu, e ci sono vetrine di cristallo illuminate all'interno da faretti. Su ogni ripiano posso vedere uova di tutte le fattezze, di tutti i materiali. Una delle stanze più curiose della collezione del Nosphere. Sono pronta, oggi, ad accompagnare voi e il vostro stato di coscienza a conoscere una delle figure femminili sovrane nel mondo del tarot. Una donna molto equilibrata, colei che per equilibrio di sé e degli eventi... Voce! Pesa l'anima e la vita delle persone. Colei che sa quando una cosa è sbagliata o meno. Sì, è proprio lei, la giustizia. Il suo volto lievemente sorridente, ma al contempo immobile e severo, sorregge la bilancia equinoziale. È la prima figura femminile salita al cielo, a ritirarsi fra le nubi, stomaccata dall'ingiustizia degli uomini. La giustizia che lei propone ed attua non è la giustizia terrena, ma quella più in linea col pensiero divino. Nella mano destra impugna la spada della fatalità, volta a ristabilire con il premio o con la pena l'equilibrio infranto, così come la sua bilancia pesa e quantifica gli errori commessi. È lei che ci parla dei crediti o dei debiti del karma. Rappresenta la ragione, la coscienza con la quale non bisogna mai venire a compromessi, l'equilibrio del bene e del male, della luce e del buio, del maschio e della femmina. L'alchimia sintetizzata nei colori dei suoi abiti, il rosso e il verde, il trionfo della verità, anche quando si tratta di verità difficili da accettare. Ecco lei che sceglie per gli altri e che lo sa fare, che si assume la responsabilità di intercedere una giusta giustizia ad ognuno. Mi inchino con tanta grazia e perfezione, con grande rispetto, allontano di un passo, passandole il microfono e lasciandole piena parola. Là dove lo spirito ha le medesime dimensioni della materia, là dove non si sa se la densità sia l'origine dell'etere, là dove l'etere genera la densità, là, in un equilibrio eterno e infinito, ci sono io. La realizzazione dell'universo è la mia giustizia. Ad ogni galassia, ad ogni sole, ad ogni pianeta, ad ogni atomo, il posto che gli spetta. Grazie a me il cosmo è una danza. Ogni nascita, ogni spirale, ogni stella che si spegne ha il suo posto nell'universo. Faccio sì che ogni essere sia quello che è. Ogni granello di polvere, ogni stella cometa, ogni orfano meritano di adempiere la missione che è stata loro affidata dalla legge suprema. Alla minima deviazione da tale decreto, io pronuncio il castigo supremo. Colui che avrà deviato verrà espulso dal presente. Il bene che fai agli altri sono io a dartelo. Quello che non dai te lo tolgo. Quando distruggi ti elimino. Non dissolvo soltanto la tua materia, ma cancello ogni tua traccia dalla memoria del mondo. Quando appaio nel corpo di una donna, questa diventa una vera madre. Dare alla luce significa concedere un posto qui e ora alla coscienza infinita. Io, madre universale, mi colloco nell'incontro fulgine e monumentale in cui l'oceano della materia entra in contatto con l'anima impalpabile e si disintegra come una pioggia per far vivere ogni frammento della sua densità. Sono la perfezione che non richiede nessuna aggiunta e non tollera nessuna sottrazione. Quanto mi viene dato ce l'ho già. Quanto mi viene tolto non esisteva in me. Ogni istante è giusto, è perfetto. Dall'azione elimino ogni intenzione soggettiva. Faccio sì che le cose siano esclusivamente quello che sono. Io do a ciascuno ciò che si merita. All'intelletto il vuoto, al cuore la pienezza dell'amore, al sesso il piacere della creazione, al corpo la prosperità, che non è altro che la salute, alla quintessenza, la coscienza, do il suo centro, che è il nostro Dio interiore. Grazie. Grazie, grande madre. Devo dire che è il simbolo della compitezza. Con lei è in grado di riequilibrare la nostra vita, ma l'equilibrio e la perfezione non sono sinonimi di simmetria. Comodamente seduta sul trono, la giustizia con i suoi attributi di attività, la sua spada, e di ricettività, la bilancia, è la prima figura delle carte dei tarocchi a guardare davanti a sé. La giustizia ci guarda in faccia e questo arcano si allontana di molto dalle rappresentazioni tradizionali che vedono la giustizia con gli occhi chiusi. Il suo sguardo incontra il nostro come uno specchio, quasi a fare appello alla nostra presa di coscienza. Cosa fa pensare questo? Che si tratta innanzitutto di fare giustizia a noi stessi, di regalarci quello che ci meritiamo. È dunque lei, la giustizia, l'incarnazione più accessibile del grande archetipo femminile materno della Luna. Sovente, in una stanza rappresenta la madre, o la donna incinta. Questa carta si presta inoltre ad interpretazioni proiettive molto forti, può ricordare una figura materna, dogmatica, castrante, a qualsiasi elemento distruttivo. Rivela inoltre un bisogno di perfezione talmente forte da condizionare il consultante quanto tenta di realizzare una qualsiasi opera, impedendogli in anticipo di commettere errori. Le sue doti di equilibrio e la sua spiritualità, le sue idee ben chiare a fronte della propria realtà, potranno essere lette nel suo sguardo come validissime alleate. Dobbiamo concederci quello che ci meritiamo, prendendo implacabilmente le distanze da ciò che non vogliamo. La giustizia insegna a dire di sì e a dire di no, a distinguere i giudizi soggettivi dai giudizi obiettivi e per fare questo a mettersi nei panni dell'altro. La giustizia legalizza un rapporto, un matrimonio, una gravidanza desiderata. Con lei ritornano equilibrio e armonia dopo un periodo burrascoso. È una guida serena ma giusta. Un affetto sincero faranno miracoli per una persona in crisi esistenziale. Rappresentante di tutto ciò che nella professione ha a che fare con la legge, trattati, contratti, conforme alle clausole stabilite, ricorsi legali fruttuosi. A lei al suo essere buona per i buoni e cattiva per i malvagi, come ognuno di noi, la sua lama è dopo taglio. Ognuno raccoglie quello che ha seminato. Vorrei lasciarti la riflessione di meditare sulla tua consapevolezza, tu che mi stai ascoltando, sul sentire di aver agito per il meglio, nell'aver fatto tutto il possibile, nel rispetto della legge cosmica. Questo per assicurarti un senso di pace, ordine, armonia, con te stesso e con gli altri. Che la giustizia sia con te. Questa era la carta della giustizia e, come promesso, mercoledì sarò ancora con voi con un'altra figura femminile, ma non anticipo nulla perché ho deciso di lasciarvi nel mistero. Ciao a tutti, Bluma. Montanari, che ho incontrato in cucina qui dell'albergo. E Graziella è una donna molto particolare, è una pranoterapeuta, una sensitiva seria e anche una cuoca molto molto speciale. E difatti ci racconterà di alcuni suoi dolci, in particolar modo natalizi, visto che più o meno siamo vicini a Natale, che lei appunto prepara e che dà solo a certe persone usando determinati ingredienti. E io direi, Federica, che possiamo ascoltare Graziella, ok? E questo è il panettone, vero, di Natale? È il panone. Come lo fa questo panone? Cioè, come lo fa? Qual è l'ingrediente principale? Ah, ce ne sono tanti, perché io mi sa che è Savoie. A Savoie sarebbe il mosto del vino con delle mele cotogne, bollite con delle mele. E quindi tra il mangiare e la, come dire, l'essere sensitivi, la magia, c'è un filo che li unisce, secondo sì, lei? Forse sì. Forse sì. Sì. C'è un filo perché lo si fa proprio, ha capito, con passione. Sì. Invece quando alcuni fanno lo stesso dolce poi non riescono. La ciambella col buco viene un ciambellone, vedi alcune che la fanno diverse. Quindi l'energia passa anche nel cibo, sì. L'energia di una persona come la sua. Sì, perché anche quando si mangia con Reiki si mette le mani, qualsiasi cibo dopo non fa male. E quindi lei lo fa questo rito, anche quando cucina questi panoni, questa tecnica Reiki, sì. L'adotta, sì. Sì. Sì, sì. Ecco, io so che lei ha questa dote particolare che è quella non solo di cucinare questi cibi un po' speciali, ma anche di vedere chiudendo gli occhi. Sì, io chiudendo gli occhi, e le spiego vedo, ma vedo anche se c'è un shutter chiuso, un punto energetico chiuso. E come fa a vedere chiudendo gli occhi? Cosa si vede? Come di vedere chiudendo gli occhi? Allora le spiego, perché io la persona guardo dentro l'anima, capito? Attraverso gli occhi? Sì, sì, sono sempre preso con gli occhi. Non mentono mai, anche se noi non dobbiamo mai guardare gli occhi, dobbiamo guardare il terzo occhio. E cioè? Tutto. Ma dell'altra persona? È la sagra dell'Hard Noise, abbiamo partecipato all'organizzazione di The Cage, sempre a Bologna. Siamo stati invitati a Venezia, a Belluno. Ma ci sono fondi per questi festival o sono tutti autoprodotti? Come funziona? Sono per la maggior parte, almeno per quelli di cui noi abbiamo esperienza, sono assolutamente autofinanziati, almeno per il genere in cui noi siamo inserite, che è abbastanza estremo, ha una nicchia di fedelissimi, però non è assolutamente, non ha dei seguaci un numero tale per cui da meritare dei finanziamenti. No, non merita i fondi, era ovviamente polemico e era visto dalla parte di chi i fondi li eroga. Per me è meritevolissima la cosa, è meritevole l'approccio che c'è dietro. A me piace accomunare questo genere di approccio a quello, un po', a quello punk, ok? In questo senso che abbiamo deciso dall'oggi al domani di buttarci a suonare senza aver mai suonato uno strumento prima. Non c'è quindi bisogno di esperienze pregresse a livello musicale, a livello di tecnica musicale, c'è bisogno semplicemente di voglia di esprimere qualcosa e di cercare i modi per poter avvicinare il più possibile quello che hai nella testa alla realtà. Poi ovviamente c'è chi ha più tecnica, più conoscenze, c'è chi ha strumentazioni migliori, ma soprattutto parte tutto dalle idee. Puoi fare qualunque cosa senza avere nessun tipo di conoscenza musicale, forse un pochino di, un minimo di conoscenza di allacci elettronici, ecco. Quindi voi mi state dicendo che la vostra formazione è completamente autodidattica? Essendo cresciuta in una famiglia di musicisti, ho studiato pianoforte per 6 anni e quindi insomma un background in quel senso c'è. Una, diciamo che la struttura musicale in sé, in questo tipo di genere, è qualcosa di molto più istintivo. Primordiale quasi, sentite una cosa, cioè il fatto che io sia venuta a cercarvi un bel giorno per chiedervi di fare un'intervista, che effetto vi ha fatto sapendo che io avrei intervistato solo donne? Non ci è mai stato chiesto perché, per come vi trovate, siamo semplicemente noi fatte delle domande, ci siamo chieste tipo? Ad esempio, che strano non trovare così tante donne, perché dove sono delle altre, dei nostri simili che fanno cose che si possono ricondurre alla nostra esperienza, e non ne abbiamo trovate fondamentalmente. Ci sono molti progetti di elettronica femminile, però non a livello di noise, ecco, perché è un ambito un po' legato alla sfera maschile, abbiamo avuto modo di dire, almeno in Italia è così. Forse il momento storico che abbiamo vissuto ci ha portato a manifestare le nostre emozioni in un modo violento. Non siamo a conoscenza di altre realtà del genere simili alle nostre, tantissime donne che fanno musica, tantissime, ma poche donne che esprimono la rabbia probabilmente, ho le emozioni forti. Se possiamo dire un 50% di uomini e un 50% di donne nella musica leggera, nella musica melodica, nella musica pop, quant'è la percentuale di donne, di gruppi femminili, di ragazze, di donne vecchie, chiunque, ma di genere femminile in generi come l'hardcore, per dire? Ci sono le donne, ma sono nettamente inferiori. Io dico, la capacità di esprimersi musicalmente ce l'hanno le donne come ce l'hanno gli uomini. Sentite, ma voi utilizzate il vostro oggetto protagonista, è la macchina da cucire, che è un oggetto tipicamente femminile. Cosa mi dite di questo? Ti rispondo subito togliendo all'oggetto il significato legato a una certa musica femminista. Entrambe avevamo già un suono nella testa. Più che altro è uno dei tanti oggetti che abbiamo scelto della vita quotidiana, in qualche modo, che ci apparteneva fondamentalmente. Noi avevamo questi oggetti nella vita quotidiana, abbiamo preso quello che avevamo intorno. Quindi abbiamo scelto quello proprio perché era più funzionale a livello sonoro. Però ne avevamo tanti altri. Potremmo, non so, c'era un silke pill, c'erano tante altre cose che il massaggiatore, c'erano un sacco di cose che poi è vero che sono tutti oggetti legati al mondo della donna, ma perché noi siamo donne, cioè quegli oggetti che abbiamo intorno a noi sono evidentemente, cioè silke pill ce l'abbiamo, adesso non so se anche gli uomini ne fanno uso, però comunque quello che avevo in casa era quello, cioè un attimo ti guardi intorno, è vero che sei contornata da oggetti femminili se sei donna. Cosa posso far suonare oggi? È vero, è andata proprio esattamente così. Quando a fare le cose sono le donne, cosa cambia? Sì, le donne così che abbiamo conosciuto comunque hanno un modus operandi diverso, cioè una cura quasi tecnica molto maggiore, molto. Le donne che abbiamo visto comunque sono molto legate a una ricerca del dettaglio. Centellinato il dettaglio, è veramente minimo, non so. Ma quindi voi vi trovate in collettivo, no? E magari vi mettete anche d'accordo per suonare, ma questa proposta come potrebbe essere letta da chi non fa parte di questa community? Non c'è, penso, non esiste un locale, un posto che faccia esclusivamente suonare gruppi che fanno questo genere. Sì, non sono tantissime le persone che lo fanno, diciamo, ecco, in Italia quantomeno. E siccome tutte le persone che lo fanno sono molto appassionate di questa cosa, tendono anche a cambiare città per vedere eventi di questo genere, spesso e volentieri. Quindi è facile andare, ritrovarsi a Bologna con gente di Belluno, Venezia, Firenze. Riguardo a questo argomento, che l'anno scorso dovevamo organizzare un festival che adesso è stato rimandato provvisoriamente, si trattava di trasferire sui colli o nelle campagne fuori Bologna quello che avevamo già sperimentato all'XM24 all'interno della Sagra dell'Hard Noise, quindi invitare tante realtà noise di sperimentazione e fare una grande festa in mezzo alla natura con tanto di generatori, esibizioni live a ripetizione, lontano proprio dal centro cittadino. Sì, all'equinozio doveva essere, sì. Beh, ma quindi una sorta di rito? Una sorta di rituale rave, sì. Volevate parlare con Dio? Con i rettili triangoli, è vero. Ci divertiamo a ritrovare simbologie perdute legate all'esoterismo massonico come gioco, nel senso. E questo rientrava un po' nel concept della festa in qualche modo. E infatti i rettili triangoli all'epoca non erano molto d'accordo e ci hanno inviato questo messaggio dall'alto dicendoci che dovevamo spostare la data. Che differenza c'è nel fatto di farlo all'XM24 oppure sui colli bolognesi? Il contesto è totalmente differente. All'interno dell'XM24 siamo inevitabilmente condizionati da una struttura che è ben identificata a livello sociale. Questa in qualche modo la caratterizza involontariamente quasi. Queste esperienze non partirebbero come eventi ben identificati socialmente. Però è capitato l'XM24 perché era un contesto aperto a questo genere di cose. Il fatto di voler ricreare la stessa atmosfera all'interno di uno spazio non identificato socialmente è una cosa che ci ha attratto molto, proprio per avere il maggior tipo di libertà possibile a livello espressivo. Potrebbe essere anche la riproposizione appunto di feste che ormai non si fanno più, ecco. Come le vecchie feste baccanali che si facevano nell'antichità, che poi sono stati ripresi dagli anni 80 in poi, magari con i rave party illegali nei boschi e nei posti più sperduti. Ecco, fare un'esperienza del genere associata alla musica noise o comunque anche con un'apertura, voglio dire, verso altri generi sempre legati a questo mondo, sarebbe molto interessante. Già diciamo che l'XM24, per chi non lo sapesse, è comunque un centro sociale, quindi uno dei posti in cui, diciamo, la libertà dovrebbe essere. Voi mi dite che addirittura avreste voluto svicolarvi dall'XM, quindi da qualsiasi tipo di struttura. E c'è mai stato qualcuno di voi o voi stesse che ha provato a verbalizzare queste sensazioni o ragionamenti che si possono... Su questo genere è stato scritto molto, ora non mi sovviene sinceramente. È importante dire che il filone a cui facciamo riferimento non ha a che fare con il filone noise in più intellettuale in qualche modo. Tendiamo principalmente a scardinare un po' di costrutti anche su questo senso, diciamo. Il nostro è un intento canzonatorio molto spesso, sì. Fa il verso in qualche modo a chi opera a livello intellettuale, super intellettuale, ecco. Siete stufe di laboratori formali fondati su una parola, ma perché? Sarebbe interessante vedere come cambiano le modalità espressive a seconda dei diversi contesti sociali, culturali, eccetera. Ragazzi, di fronte a questo ultimo bicchiere di vino siamo giunte al termine. Quali sono le domande che vorreste vi fossero fatte? Non mi viene mai chiesto, volete venire a suonare in Messico? Tipo? Questo pezzo è dedicato a voi, so che ci state ascoltando in questo momento, quindi mi unisco a voi nel chiedere a Pablo un invito in Messico, perché no? E adesso lascio la parola alla mia collega 1920, vi ricordo che ci state ascoltando noi stiamo trasmettendo in diretta da Piazza Puntoni e ci potete ascoltare in streaming oppure potete ascoltarci anche su Radio Kairos 105.85. La parola a Linda Rigotti, 1920. Buonasera, introduco Lucia, che è una donna che mi piace molto, che mi è molto cara. E che sono andata a trovare con 1920 Costanza Savini nel suo giardino, cioè l'opera alla quale si è dedicata in quest'ultimo anno della sua vita. Però io non posso dire niente perché Cézanne è venuto fuori a 40 anni, per cui abbiamo sempre la possibilità di sperare che queste casalinghe sulle strade facciano dell'arte. Era terribile, era un uomo alto 90, un personaggio tutto brusco. Però alla fine insomma, mi è servito, no? Mi è servito tantissimo, intanto ho imparato a fare la serie. Sempre, non quella che lavorava così tanto. Sono arrivata qui nell'85, questo luogo era bellissimo perché era l'unico posto dove non si vedessero case. E io volevo un posto dove non si vedessero case. Per me l'importante era vedere solo la tua casa. Però penso che il luogo valeva la pena, no? Perché aveva questa visione ampia e il sole sorgeva là e tramontava là, per cui il sole lo vedevo tutto. E penso che c'era questo pezzo di terreno e sarebbe diventato qualcosa di magico. Questo sogno di fare un giardino dove ci fossero fiori, e frutti, e verdure, mescolati insieme, potesse essere un'idea allegra. Questa idea della frutta e della verdura e dei fiori era fortissima. Allora ho pensato a un progetto di trasformare questo luogo, iniziato a febbraio dell'anno scorso, per cui quasi 2 anni fa. Ho cominciato a vedere la permacultura come un'idea geniale di un signore che si chiama Holzer, e Holzer ha creato da una montagna, da un pendio di una montagna in Austria, abbastanza un territorio meraviglioso utilizzando l'acqua. L'acqua è un elemento importantissimo per Sapolza, dice che sono i laghi che tengono il clima. Ma lui è riuscito a 1000 metri a far venire le grumi, cosa che era bravissima. E lì guardando i suoi video ho pensato di poter fare anche qualcosa del genere, quindi ho terrazzato. Anche l'idea delle terrazze, poi è venuta l'idea dell'acqua, l'acqua però non è finita, era finita. Questa pietra dovrebbe sorgere l'acqua lì. Qua dovrebbero esserci 5 fontanelle delle flauforme steineriane che creano un ciclo di acqua, un gorgogliare, no? In cui l'acqua si espande, si contrae, quindi questa ispirazione. E qui proprio verrebbe tutta una serie di cascatelle fino ad arrivare là già riossigenata, poi i passaggi dei 3 laghi e poi andare in questa pompa che riporta sull'acqua. Questo sarebbe il progetto che... Poi niente, poi l'idea appunto di fare provviste invernali, di non essere sempre dipendente dal supermercato, no? Cioè da creare un'autonomia anche dal punto di vista del cibo, per cui pensare anche di produrre cibo sufficiente per potersi autoalimentare senza dover ricorrere a andare per forza a fare la spesa, io vado a fare la spesa una volta a settimana, quelle cose che ho detto, il caffè, l'olio. Insomma, di essere abbastanza sufficiente con un po' di provviste di genere primari, poi di avere verdura, frutta e di saperla anche cucinare e conservare, questo è importante, e poi di avere le serre, perché io d'inverno non ho solo la mia verdura, quindi tutto quello che vedi qua poi viene messo in serra, conservato in serra. Vabbè, comunque questo è un progetto proprio legato alla mia infanzia, anche perché io sono vissuta in Valdissoli, in questo a 1000 metri, dove c'era una natura molto selvaggia, parliamo degli anni 63, 64, 65, c'erano anni in cui non c'era ancora il turismo, c'era insomma, questa natura forte, con queste montagne di 4000 metri, insomma, era difficile dare, queste montagne hanno un aspetto pieno di neve tutto l'anno, quindi con questa idea della montagna che si è un po' sacra. Questa è una pianta, il pomodoro non potato. Allora, i pomodori di solito bisogna potarli per creare frutto. Io ho pensato, beh, mi sono potato. Vediamo cosa succede. Cioè, secondo me ha prodotto ed è più sana non potata che potate. Ho preso malattie tutte quante quelle potate. dalle loro comodità e rischia di perderci gli altri fiori, di profiori di altri fondi. Questo è mistico. Senti che profumo che ha. Questa invece me l'ha dato mamma, si chiama erba matta, nelle frittate. Ma il mistico viene usato anche nella medicina. Medicina omeopatica, l'origano è fantastico, poi c'è della menta anche, ci sono quattro tipi di menta qui. Alla base di tutto deve esserci un humus sano, meraviglioso, che in questo caso è un humus creato dalle tane, degli asini e dei cavalli che ho. La cosa meravigliosa è che nell'arco di pochi mesi, attraverso una stratificazione di tame, terra e bentonite, con i sette principi della biodinamica si crea un humus veramente straordinario, ricco e morbido, una terra trasformata in profumatissima che può permettersi appunto di aggiungere un pugno di vitalità a qualsiasi terra a cui la vuoi mescolare. Insomma, è da qui che poi nascono le meraviglie del mio giardino, cioè le piante ben nutrite. E il miracolo lo fa il piccolo lombrico, che è un animale assolutamente innocuo e assolutamente bello proprio per la sua potenziale, per il suo potenziale del lavoro che fanno. Certe persone lo uccidono addirittura, invece lui non è un verme cattivo, anzi ci sono insetti meravigliosi che possono aiutare la natura. Qui per fare questo dicevi che hai degli animali. Sì, questa cosa meravigliosa è proprio che è nata da una storia legata al fatto che, studiando la biodinamica, Rudolf Steiner diceva che il letame deve venire da animali tenuti liberi, con un'alimentazione sana. Quindi io da 6 anni, ma sempre ho avuto animali, ma in particolare questo periodo sto usando appunto il letame di Prior, che è un cavallo di 30 anni, sempre tenuto bene, quindi con una buona alimentazione, d'estate va in malga, sta su negli alpeggi alti, poi viene giù e mangia solo fieno. La libellula è sempre qui, lei viene adesso, vedrai, verrà a incontrarci, perché lei è molto curiosa, abita proprio qui nel paghetto, tra un po' arriva proprio da guardarci, perché lei deve guardare chi arriva. Qui c'è l'acqua, l'acqua come forma. Sì, una forma di luna, una faccia di luna, e dentro quest'acqua io ho immerso una mia scultura, che è un calco di una donna incinta, una donna che si è dolcemente prestata a questo lavoro di calco quando lei era incinta di Lorenzo, Daniela, e questo è stato bellissimo perché ha permesso proprio di avere la vera forma della maternità come simbolo proprio di fecondazione, di abbondanza, come tutte le mie sculture, no? Che sono arrivate a questa cosa bella. E adesso stiamo ruotando attorno al centro del tuo sì, lavoro. Questa forma appunto ha una forma molto specifica, molto geometrica, nonostante non sembri. È creata appunto sul disegno di un crop circle, cioè di una spirale, di una serie di cerchi concentrici, però con un'uscita spirale di 3 lati, che era proprio il disegno di un crop circle che avevo visto tanti anni fa. E poi al centro invece abbiamo una scultura legata proprio al fatto che sia formata da 6 triangoli e 6 quadrati perfettamente geometrici, che creano proprio una dinamica di forza e di energia, e al centro, proprio per potenziare questa spirale di uscita di energia e di vitalità. Parte del femminile che io ho più sviluppato sia quella del materno, proprio per il senso di amore e di dedizione, di pazienza e di cura che vengono proprio naturali, almeno a me, per quanto riguarda proprio la cura. L'amore che ho dedicato ai miei figli e alle piante, agli animali che ho sempre portato con me e ai miei allievi anche, perché anche il mio ruolo di insegnante è sicuramente un ruolo che io faccio con molta passione, creando proprio un rapporto, non voglio dire materno perché non ho nessuna intenzione di fare la mamma per gli allievi, ma di dare quella possibilità a loro di sentirsi comunque ascoltati, proprio ricettivo, proprio questo senso del ricevere, di permearmi come l'acqua, no? In qualsiasi forma, di darmi anche possibilità proprio di dedicarmi a qualsiasi aspetto dell'umano, no? Cioè non solo verso i miei stretti parenti, ma anche verso il prossimo, verso le persone. Mi adeguo, riesco a mascherare benissimo e ad adattarmi a qualsiasi genere di persone, di stato sociale. Mi ricordo in India, no? Quando sono stato in questi ashram dove ho lavorato nelle cucine, prendendo il cesso, prendendo il vento, adattandomi proprio, ma non sacrificandomi, proprio cercando di trovare questo valore, no? questo rapporto anche con le cose meno comuni, no? E poi invece quello che non ho ben portato in evidenza nella mia figura femminile è stato forse l'aspetto estetico, no? Perché ho sempre cercato più la comodità che l'aspetto esteriore di mostrarmi. Non è l'aspetto più accettato da una società dove ti vorrebbe vedere insomma, sempre al massimo lo splendore esterno. Questo è un aspetto mio. Alla luce della scelta di vita che hai fatto e di tutto quello che comunque hai visto, hai pensato, hai letto, insomma, che idea hai della morte? Insomma? La morte è una cosa molto triste. Penso di essere una delle persone che fin da piccolo ha amato la morte, perché credo che il problema non è per quello che muore, è per quello che resta. La mia morte l'ho sempre vista come un ritorno a una sostanza meravigliosa, che è quella proprio di trasformarsi, non di sparire, per cui non la vedo come la fine di tutto, ma come l'inizio di qualcos'altro, quindi credo di avere molta speranza. Trapassare in un modo molto sereno, di prepararmi con serenità a questo aspetto appunto del passaggio. Poi la morte l'ho vista sempre come qualcosa di che si trasforma. Tu alludi alla trasformazione, diciamo, biologica o anche proprio animica, cioè una trasformazione. Cioè tu muori come corpo, nel senso che poi quello è il corpo, non muore tutta te. Tu non sei solo corpo, sei anche spirito, sei anche anima. Credo che potenzialmente comunque non sia la fine del tutto. Ma le donne mi piacciono perché sono come me, quindi ho sempre un rapporto con loro meraviglioso, pieno di scambio verbale, di scambio di informazioni sensibili, idee. Poi ho anche un buon rapporto con tantissime ragazze giovani, non solo con le amiche del mio tempo, della mia età, ma anche delle persone più con età diverse, con problemi diversi. Creo sempre dei rapporti con loro molto, come dire, profondi, no? Legati proprio a un'amicizia che è uno scambio d'amore, uno scambio di interessi, di culture, di conoscenze. Si creano delle situazioni di mutuo soccorso e di scambio proprio legato all'aiuto, al fatto di dirsi delle cose che magari in quel momento tu non sai di sapere, che però lo sai, però non lo sai, e questi ti aiutano a capire che lo sapevi già. Ci sono delle cose bellissime legate proprio all'aspetto poetico, che con le donne può venire anche guardando un fiore, no? Come abbiamo fatto con te, insomma, un aspetto di osservazione attenta, di guardare con quell'atto artistico con noi, ma non per questo solo femminile, anche maschile, perché conosco degli uomini meravigliosi che hanno loro anche loro una sensibilità eccezionale verso l'osservazione, verso la natura, verso quello che io credo che sia la parte più pronunciata in me, no? Che è questo proprio di stare in questo luogo sola, perché qua non c'è nessuno, cioè sono solo io, non c'è un maschio che mi difende. Ok, riprendo un attimo la parola solo per dire che qua c'è Mario, che mi ha detto di ricordare che Lucia è bella, viva e splendente, perché la mia frase ultimo anno della sua vita non era molto chiara. Passo la parola a Fedra. Ma prima? No, 19:20 Fedra ti dice che dopo tutta la giornata in cucina, con il vino che ci ha regalato Letizia e tutta questa densità e queste chiacchiere, cavoli, vado a prendere un po' d'aria in terrazza. Che si dice una risata al femminile, no? Certo, anche se lei di femminile non ha molto, però comunque è una gran risata. Una gran risata per una donna che quando si fa la permanente, diceva Fedra, no? Diventa quasi un supereroe della Marvel, no? Una super donna. Super donna, per me è single. Anche no. Per me? Vero. Ma magari non lo è, però lo è intimamente, nel senso una donna così non può che essere single nell'animo. Certamente, talmente voluta che è single per forza, poi diciamo che la natura non ha aiutato, sì, sicuramente. Perché no, se la ride, anche se la natura non ovvio, lei si fa delle gran ghignate, poi la comunità europea è una ganza, veramente. Guarda, vorrei essere lei in questo momento, alla faccia di tutti, anche se gravissimo, però comunque. Ma stavamo parlando quindi di donne e di single. Poi mi ricordo qualcosa rispetto alle porzioni monodose. Sai che... qualcosa di donne single? Io sì. Fedra. E infatti ero qui che origliavo, cercavo di prendere spunti, perché mi sa che sarà una condizione che mi accompagnerà per molto tempo. Ma vabbè, dicevamo, è più uno stato dell'essere, no? Anche se è difficile essere single, essere fidanzata, dipende da come la prendi, oppure da come la prende lui. Esatto. Tu sei fidanzata e lui è single, dipende. Esatto. Sì, il problema vero è la difficoltà di essere single e di essere donna. Beh, sicuramente l'uomo single è single, la donna single diciamo che ha un po' di svantaggi. Per esempio, tu hai mai visto un servizio di Human Health che vanno a casa delle donne single una volta a settimana ad attaccargli le mensole? No, però... A fare il bagno? No, in effetti me le attacco da sola. A riverniciare le pareti? E invece ci sono i servizi per gli uomini single di donne che vanno a stirargli le camicie. Davvero? Stirano le camicie, gli lavano il bagno, gli puliscono il cesso e tante belle cose. Ciao, mi presento subito, io sono Wendy Giovedì, scusate se interrompo, sono una, diciamo, quasi componente delle Tette Biscottate, mi avrete già visto sul palco prima dei concerti, anche se loro non le ho mai incontrate, solo due volte. Volevo dire, in effetti, che secondo me queste donne che vanno da questi uomini single fanno anche altro, secondo me. Oddio. Sì, per me non sono che dite voi che stirano le camicie, perché io ho sentito parlare di donne che fanno altre cose con gli uomini. Ma anch'io ho sentito parlare di tante cosine. Sì? Sì. Visto, anche tu lo sai. Mi è arrivata voce. E gli uomini che fanno altre cose con donne? Io voglio uomini che fanno tante cosine a casa mia, tipo che vengono, aggiustano il bagno, poi se è carino si sofferma. No, non è vero, non è un appello, è un par condicio della situazione. Loro ce li hanno e noi no. È una considerazione. È una considerazione. Apriamo una banca dati che tutte le donnine come noi, che sanno usare il trapano, sanno abitare, sanno cos'è un Fischer dell'otto. Allora, visto che io il trapano lo possiedo, non in quel senso, anch'io. Possiedo noi un trapano, chi ce l'ha? Se c'è una signora che ha bisogno che gli vado suo figlio, gli vado a mettere a posto la mensola, lui, cioè uno scambio di ore, tu dai un servizio a me, io aiuto te, tu e fai venire in mente la banca del tempo. so fare alcuni servizi e questa donna, io non so cucinare, viene a casa mia a far ragù. Io l'amerei. Vabbè, ritornando un attimo alle donne single e a questa che si chiama Merkel. Ve lo immaginate la Merkel capo di una girl band? Addirittura rock. Hardcore. Molto hardcore. Sì. Andy Giovedì, tu che ne sai? Pensi che al festival in the Pink of Rock, dove hai anche quasi partecipato tu quando parteciparono le tette biscottate? Infatti lì fu la prima volta che io fui esattamente sul palco. La prima volta. E ho anche cantato una canzone. Che faceva il coro? Sono felice, sono felice, sono felice. Sulle canzoni, prima degli assoli, prima della tecnica, prima di qualsiasi cosa, per noi funzionale è la canzone, per cui siamo un gruppo che scrive canzoni. Siamo molto molto un gruppo molto molto tormentato, ogni po' cambiamo le nostre vite e quindi ci dobbiamo riadattare in base ai cambiamenti, tutte le volte che lo toglie e quindi ci dobbiamo impegnare, ci dobbiamo organizzare per ricostruire l'equilibrio e per andare avanti. Però diciamo questa è una cosa un po' faticosa, però allo stesso tempo ci dà anche molti stimoli e non ci fa annoiare, ecco. È sanguinali perché le cose, diciamo, tecniche un po' ci stufano, siamo più sull'emozione e quindi sanguinali, il sangue, l'energia sanguinale. Secondo te cosa c'è dopo la morte? Cosa c'è dopo la morte? Forse è una domanda che evito di pormi. Io sono, purtroppo, credo che non ci sia niente. Allora, dopo la morte, non lo so, poco tempo fa ero completamente atea, invece adesso credo che ci sia probabilmente qualcosa, la nostra anima raggiunge uno stato, non so, qualche sogno, qualcosa di paranormale, nel senso di etereo, non lo sento. Ma lo sto sviluppando, quindi è una bellissima domanda. Sì, sì. Bene, mi fa molto piacere. Andy Joe, no, hai sentito Andy Giovedì? Scusami la gaffe, però mi fa molto piacere che mi hai scambiato per lei. Lo intuivo un pochino, comunque un pochino vi assomigliate. Sì, veramente? Sì. Grazie. Comunque ho avuto modo di sentire la voce della tua cantante preferita che intervistava i gruppi rock che in quella sera di luglio abbiamo avuto il piacere di sentire, che sono le Sarah Cluster, le Cleopatras e le Starry Strip, che fanno parte, partecipavano a questa edizione di In the Pink of Rock, che è una manifestazione che ce ne vuoi parlare un pochino tu, visto che hai preso parte? In the Pink of Rock nasce per la prima volta nel 2010, organizzato all'interno della mostra scusate, sono molto emozionata di stare in radio. Comunque, all'interno del Botanic, che è un festival di musica organizzato dall'Estragon, un locale di Bologna. E invece questa manifestazione In the Pink of Rock, ci racconti un pochino come nasce, oppure tu conosci le organizzatrici? Chi? La Patti, ad esempio. Patti, Miss Patti? Sì, sì, la conosco. Che hanno anche un gruppo che si chiama Miss Patti, Magic Circle. Circle, ecco. Sì. Che infatti sarebbe dovuta essere qui, però è veramente impegnata con la registrazione del loro nuovo album e quindi, insomma, ci ha detto di rivolgerci a voi, sì, alle tette, perché a questo punto sei una tetta, pseudo tetta anche tu. Sì. Sì, sì, sì, io ho già pagato ogni tetta un po' di soldi per farmi entrare nel gruppo, non posso dire, mi hanno vietato di dire la cifra, comunque io, dovrei essere tra poco iscritta come una tetta sul loro MySpace. E in quella volta in cui eri insieme a loro, come vi siete trovati a questo festival? Qual era la un'emozione bellissima per me, perché era la prima volta che salivo sul palco. Io so che loro vuoi delle notizie su come si è svolto il concerto? Sì. Allora, praticamente prima sono entrata io e ho salutato tutti, ho letto una lettera delle tette biscottate in cui loro mi avevano dato di leggere, però c'era un brutto segno con la mano, così faceva. Ah, quello con un dito solo? Con un dito solo, così medio, tirato su, e io mi sono vergognata. Poi l'ho rimessa a posto la lettera, ho cantato la mia canzone e poi sono arrivate loro e lì è stata un'emozione fantastica, hanno fatto 8 canzoni in 20 minuti perché c'erano dei tempi calcolati e doveva finire tutto alle 11 e loro sono riuscite a fare 8 canzoni in 20 minuti. Ah, quindi sono arrivate in cui hanno fatto tutto l'album da un tutto in 20 sì, minuti? Sì, sì, sì. Grandi! Sì. Erano molto preparate. Visto che si sta parlando di musica e visto che ormai comincia a far freschino anche in questa terrazza, io ringrazierei i nostri ospiti e appoggerei loro gli asciugamani. Grazie, grazie, grazie. Quindi sono anche la delle giraffe, ringrazio Federica Patti e anche Andy Giovedì per essere state qui ad averci raccontato queste dinamiche così clandestine quasi dal suo punto di vista, e ci salutiamo con un brano delle Miss Patti and the Magic Circle e New Eclipse. Ho sbagliato pronuncia? Allora, Miss Patti and the Magic Circle, ok, e New Eclipse. Ciao a tutti, ci vediamo 19:20, ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora, sempre nello stesso luogo, fruibili in Piazza Puntoni dalle 18 alle 20 per 19:20, invece per la trasmissione Elia Media dalle 4, e ci potrete ascoltare anche in streaming su www.eliamedia.org e sulle frequenze di Radio Kairos 105.85. E un saluto da tutte le 19:20 e ciao. E ancora un grazie a tutte le belle ospiti che sono state con noi in cucina, nonché a quelle della terrazza. Qualcuno mi riporta a casa? Passa per il bagno. Va bene.